Per quasi tutta la vita Matilde fu considerata spavalda e temeraria dalle persone che la circondavano. Ma la verità era che aveva una paura tremenda del buio, soprattutto quando restava sola. Questa era la conseguenza degli incubi che faceva sin da quando era molto piccola. I suoi sogni erano sempre stati vividi, spesso bizzarri e inquietanti. Adesso che era più grande, capiva che sognava all'epoca di Gesù. Era parte della profezia che l'attesa avesse sogni e visioni degli ultimi giorni di vita di Gesù, ma in particolare della sua crocifissione. Matilde si preparava per andare a letto alla vigilia del suo 16° compleanno e fino a quel momento si era risparmiata la visione specifica di Gesù sulla croce. Quando si sarebbe svegliata la mattina seguente non avrebbe potuto dire la stessa cosa. Il volto santo è un ritratto eccellente di Gesù, disse Matilde. Il maestro Isabella e Patrizio restarono impietriti quando entrò nella stanza facendo quell'annuncio inaspettato. Sembrava scarmigliata ed era evidente che non aveva dormito, ma la sua asserzione era forte e lei non appariva turbata. Che cosa è successo, Matilde? Fu Isabella a domandarglielo. Matilde raccontò per filo e per segno quello che aveva sognato, descrivendo in dettaglio che cosa e chi aveva visto. Descrisse minuziosamente Maria Maddalena con la sua bellezza struggente, poi Nicodemo e persino i soldati durante la crocifissione. A quel punto il maestro la interruppe. «Hai visto il volto di qualcuno dei centurioni?» le chiese. Quando Matilde annuì, il maestro restò muto in attesa della sua risposta. «Uno aveva gli occhi di un azzurro straordinario», disse. «Quello doveva essere Pretorio», asserì lui. «Il libro rosso lo descrive in modo molto specifico, come il romano dagli occhi azzurri». Il maestro era piuttosto soddisfatto. Matilde non aveva ancora studiato Pretorio e Veronica perché la loro storia rientrava nelle lezioni che avrebbe appreso una volta raggiunta la maggiore età, cosa che ufficialmente accadeva proprio quel giorno. Le lezioni sulla sacra unione degli amati non venivano impartite prima del 16° compleanno dell'iniziata. Che Matilde avesse visto Pretorio e fosse riuscita a individuare l'insolito colore dei suoi occhi era un chiaro segno che la sua visione era autentica. Il maestro non aveva dubbi che lo fosse, ma questa era certamente una fortunata conferma. Hai visto il volto dell'altro centurione? Matilde scosse il capo. Di quello moro, quello che ha trafitto Gesù? Caio Longino, replicò il maestro. Un giorno ti dirò di più su di lui, ma non oggi. No, non ho visto il suo volto, però, esitò per un istante, cominciando a sentire un nodo in gola. Il maestro annuiva con aria comprensiva, sapeva che doveva essere stato difficile assistere a una scena del genere per una persona così giovane e emotiva, benché fosse avvenuto in sogno, ma la sua risposta era importante. Ho visto ciò che ha fatto e credo che non lo dimenticherò mai, né dimenticherò mai il suono della sua risata. Il maestro sembrò rattristarsi per un momento, prima di rispondere: No, Matilde, e non devi dimenticarlo, perché sei stata benedetta da una visione divina. Tutte le sue parti sono sacre e dovrebbero essere tenute in gran conto, anche i momenti duri da sopportare. Continua, figliola, che altro hai visto? La voce le si strozzò in gola quando tentò un primo resoconto della sua esperienza con Gesù sulla croce. Lui era così bello e gentile. E in quel momento riuscivo a pensare solo che i suoi capelli e i suoi occhi scuri somigliavano in modo sorprendente a quelli del volto santo. È davvero un volto santo perché è il suo volto. I quattro parlarono ancora un po' del sogno. Patrizio aveva molte domande su tutti i suoi personaggi. Per lui quella era una grande avventura, una visione del passato che riportava in vita tutto in modo straordinario e come membro dell'ordine, quasi maggiorenne, era fortemente interessato alle informazioni sui suoi fondatori, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. Matilde gli raccontò tutto quello che ricordava: la dignità dell'uomo più anziano, il modo in cui soccorreva quello più giovane e il fatto che era sicurissima che non ci fossero altri uomini presenti. Isabella volle una descrizione completa di Maria Maddalena. Le due donne piansero insieme quando Matilde raccontò del coraggio e del dolore indescrivibili che aveva scorto in lei. Matilde, abbiamo un regalo per te. Il maestro lasciò la stanza per un attimo, quindi rientrò con una scatola di legno sul cui coperchio era intagliato il sacro simbolo del diamante allungato. Avevamo in programma di dartelo oggi come regalo di compleanno e ora mi sembra ancora più appropriato, perciò in nome della nostra Signora Maria Maddalena e in nome dell'Ordine del Santo Sepolcro, fondato da Nicodemo, Giuseppe di Arimatea e Luca, per onorare il suo nome e la sua memoria, ti doniamo questo con immenso amore. Matilde non piangeva tanto dalla morte di Bonifacio, ma la dedica orale del maestro valeva molto più di qualunque regalo materiale e il suo cuore fu toccato. Nel profondo. Aprì la scatola e tirò fuori l'anello. Era identico a quello di Isabella, per forma e grandezza, con le stelle che danzavano intorno a una sfera posta al centro. Era il sigillo ufficiale di Maria Maddalena, così come era conservato nel libro rosso, ma mentre quello di Isabella era di bronzo, quello di Matilde era fatto di oro massiccio. Era un dono splendido, degno di una contessa toscana. Lo infilò all'anulare sinistro, il dito che secondo la tradizione era direttamente collegato con il cuore, le stava alla perfezione. Non lo toglierò mai, mai. Li ringraziò tutti profusamente e passò il resto della giornata a piangere durante le sue lezioni. Era di certo la donna più fortunata della Toscana se aveva degli amici così. Propose di concludere il pomeriggio percorrendo il labirinto tutti insieme e riunendosi al centro per recitare il Paternoster, nel modo speciale che era sacro all'ordine. Una volta arrivati al centro, ribadì la sua promessa di costruire un santuario più grande per il volto santo, stavolta per rendere grazie della visione divina che aveva avuto. Quello fu, senza alcun dubbio, uno dei giorni più belli di un'esistenza memorabile. Firenze, primavera 1062. Matilde era raggiante di felicità, benché esausta. Il peso emotivo del sogno profetico fatto la sera prima e della giornata ricca di avvenimenti trascorsa con l'ordine cominciava a farsi sentire. Tuttavia, il suo sedicesimo compleanno non era ancora finito e Beatrice e Goffredo stavano dando un sontuoso banchetto in suo onore. Dopo essersi guardata attorno nella sala, recitò una breve preghiera per ringraziare la provvidenza. Era molto fortunata essere circondata da tante persone che l'amavano. Il libro dell'amore insisteva sulla gratitudine come atteggiamento quotidiano e lei era profondamente grata per quella serata. Dopo il dolce di castagne che concludeva il banchetto, il patrigno si alzò per fare un annuncio. Carissima Matilde, in onore del tuo sedicesimo compleanno, abbiamo commissionato per te un regalo speciale. Arrivò con portando un grosso baule di legno. Era tutto agghindato per l'occasione e Matilde si rese conto di non averlo mai visto così prima di allora. Con i folti capelli fulvi, puliti e pettinati e indosso gli indumenti sfarzosi dei gentiluomini di corte, era un uomo sorprendentemente bello. Più tardi avrebbe notato che molte delle donne nella sala rivolgevano un'attenzione particolare al virile celta. Se avesse deciso di non passare da solo il resto della serata, senza dubbio avrebbe avuto ampia scelta fra le dame ancora libere e forse anche fra quelle sposate, che non si curavano troppo di nascondere i loro sguardi lascivi. Tuttavia, in quel momento, Con aveva occhi soltanto per Matilde. Per te, mia piccola Amazzone. Tolse il coperchio con un gesto enfatico. Matilde restò senza fiato. Nel baule c'era un mare di catene di rame, di bronzo, che scintillavano alla luce delle grosse candele di cera d'api. Quando cercò di prenderle, si stupì di quanto fossero pesanti. Con l'aiutò e insieme estrassero quella che si rivelò essere un'armatura completa, realizzata a mano con innumerevoli anelli di maglia. Ma non si trattava certo di una rozza cotta di maglia. I singoli anelli erano stati intinti nel rame e lucidati a specchio finché non erano diventati il completamento perfetto dei capelli di Matilde. Il pesante collare di bronzo era fatto apposta per proteggerle la gola, ma era così bello che faceva concorrenza a quello di Cleopatra, grazie alle acquamarine incastonate che richiamavano il colore degli occhi di colei che lo avrebbe indossato. Matilde era sopraffatta dalla bellezza di quel dono e dalla stima che rivelava. Più tardi avrebbe scoperto che mentre Goffredo e Beatrice avevano commissionato e pagato quel regalo così costoso, era stato Con a occuparsi della lavorazione dell'armatura. Aveva supervisionato ogni singolo dettaglio del disegno e della fattura. Si era assicurato che venisse realizzata per offrirle la massima protezione, ma aveva insistito perché fosse un indumento in grado di stimolare il popolo toscano a riunirsi a sostenere Matilde quando avesse cavalcato con le sue truppe. Il cantastorie celta, che era in lui, non pretendeva altro che un'armatura adatta a una leggendaria regina guerriera che avrebbe seguito le orme di Boudicca. Quello che avrebbe anche scoperto molti anni dopo era che durante la realizzazione dell'indumento con aveva pregato per l'armatura tutti i giorni, l'aveva cosparsa con l'acqua benedetta che veniva dall'antico pozzo di Chartres, aveva invocato il divino e gli angeli affinché proteggessero la sua piccola amazzone, la prodigiosa contessa guerriera che aveva giurato di difendere a prezzo della vita, lo aveva promesso molto tempo prima e per nulla al mondo sarebbe venuto meno al suo impegno. Le sorti del papato continuarono ad essere alterne e le grandi case d'Europa intrapresero una prolungata e sanguinosa lotta per conquistare l'anima di Roma, la città che avrebbe visto andare e venire quasi 20 papi nell'arco della vita di Matilde. Fu in questo clima che un giovane arcidiacono proveniente dalla famiglia degli Aldobrandeschi, proprietario di vasti feudi sparsi tra Toscana e Lazio, giunse a Firenze per incontrare il duca di Lorena e i suoi consiglieri. Il suo nome era Ildebrando Aldobrandeschi di Soana, ma era noto agli amici più intimi semplicemente come Brando. Politicamente esperto e molto accorto per la sua età, era un uomo bello e dinamico, con lineamenti cesellati e occhi sagaci di un grigio profondo. Brando di Soana aveva un carisma raro che si irradiò dalla sua persona non appena entrò nella sala del consiglio del palazzo fiorentino del duca. Goffredo di Lorena lo accolse calorosamente. Siamo onorati della vostra compagnia e vi porgiamo le nostre condoglianze per la perdita del vostro amico e adorato santo padre. Brando ricambiò l'accoglienza con altrettanto calore. C'era autentica tristezza nella sua espressione mentre parlava del pontefice deceduto di recente, Niccolò II. Era un grande uomo e mi mancherà per il resto della mia vita. È stato uno dei miei insegnanti migliori. E avete avuto la vostra buona dose di mentori. Goffredo desiderava che Brando capisse che era ben informato sul suo eccellente curriculum nell'ambito della politica pontificia. Anche Gregorio VI era un grand'uomo. Quando, nell'ambito della feroce contesa fra papato e impero, Gregorio VI era stato deposto e mandato in esilio da Enrico III, lo stesso malvagio imperatore che aveva imprigionato Matilde e Beatrice, confiscando le loro terre, Ildebrando di Soana lo aveva seguito in Germania, facendosi un nome come consigliere intelligente e meritevole nelle questioni politiche di Roma. Aveva sfruttato i suoi giorni al di là delle Alpi in modo utile e saggio, affrontandoli come una missione per comprendere meglio le ragioni del re e per proseguire i propri studi nel prestigioso ambiente intellettuale di Colonia. Soprattutto, aveva sviluppato un ardente senso dell'onestà e della giustizia, convinto che le interferenze da parte di un sovrano temporale, in particolare uno avido e spietato negli affari della Chiesa, fossero semplicemente inaccettabili. In segreto, durante i giorni cupi e le lunghe notti dell'inverno tedesco, aveva fatto voto di dedicare la sua vita alla riforma delle leggi della Chiesa, cosicché questa sarebbe stata immune dalle influenze temporali e nessun re avrebbe potuto controllare l'ascesa al trono pontificio. Brando disprezzava l'ipocrisia che vedeva intorno a sé e aveva giurato di lavorare per creare un ambiente in cui tutti gli ecclesiastici rispettassero gli stessi modelli di integrità. Avrebbe preteso che tutti i sacerdoti e i vescovi tendessero a qualcosa di diverso dalla sicurezza della loro posizione e dalla ricchezza che ottenevano per sé e per le loro famiglie. Sarebbe stato abbastanza ardito da mettere in riga l'intera struttura del potere in Europa se fosse stato necessario. Per assicurare che le questioni spirituali venissero amministrate soltanto dal papato e per sempre. Solo allora Roma sarebbe stata abbastanza forte e degna. Questo era il voto che aveva fatto e ripetuto quotidianamente con fervore. Quando Niccolò II fu eletto papa, la sua prima iniziativa era stata quella di proclamare Ildebrando di Soana arcidiacono. Nel giro di pochi mesi, il nuovo arcidiacono stilò un audace decreto elettorale che stupì l'Europa. Tale documento stabiliva che le famiglie romane e il re tedesco non sarebbero più state in grado di influenzare l'elezione del pontefice. Sarebbe stato un gruppo scelto di cardinali chiamato collegio cardinalizio ad assegnare il pontificato da quel giorno in avanti. Brando non correva alcun rischio, stava avviando un processo per cui né la famiglia reale tedesca né l'aristocrazia romana avrebbero mai più potuto insediare un papa fantoccio per raggiungere i propri scopi. Era stato quel decreto elettorale a portarlo a Firenze per incontrare il duca di Lorena e la sua fazione. Con la morte di Papa Nicolò II, per la prima volta nella storia il nuovo pontefice sarebbe stato eletto utilizzando il sistema da lui elaborato. Ildebrando, sarò franco con voi. Intendiamo candidare al soglio pontificio il vescovo di Lucca, Anselmo da Baggio. Come sapete, egli è un forte riformatore, proprio come voi. E anche contrario al coinvolgimento tedesco negli affari di Roma, una causa che mi risulta esservi assai cara. Brando annuì. Goffredo si meravigliò della sicurezza con cui il giovane considerò la sua proposta. Oltre a essere certamente educato, era evidente che l'arcidiacono aveva il pieno controllo della situazione e la sua intelligenza era ammirabile. Goffredo lo vide calcolare, elaborare e riflettere durante tutta la riunione. Quando replicò, lo fece con una fresca consapevolezza delle circostanze attuali e della storia che a esse aveva portato. Anselmo è un uomo pio e rappresenta una scelta saggia per molteplici ragioni, ma c'è un inconveniente. Tempo fa ha guidato un'aperta ribellione contro Enrico. Perciò, se lo mettiamo sul trono pontificio, la cosa verrà considerata come un'aggressione alla Germania. Goffredo ribatté: sì, ma i tedeschi vedranno come un'aggressione qualsiasi elezione da parte del cosiddetto collegio cardinalizio che avete istituito. Meglio avere un papa che affronterà con fermezza tutte le minacce, sia verso il papato, sia verso i nostri signori italiani. I due uomini discussero dei meriti del vescovo di Lucca fino a pomeriggio inoltrato, giungendo infine a un accordo che stabiliva un nuovo e potente legame fra la casa di Toscana e Ildebrando di Soana, un legame che si sarebbe protratto nel tempo. Nel giro di 2 settimane, Anselmo da Baggio, già vescovo di Lucca, divenne Papa Alessandro II, in seguito alla prima elezione legale conforme al nuovo decreto. L'istituzione che avrebbe scelto il pontefice per almeno altri 1000 anni in futuro, il collegio cardinalizio, era stata inaugurata. I vescovi germanici e l'aristocrazia del nord erano furiosi per la scelta di un uomo che manifestava apertamente sentimenti antigermanici. Pretesero così che la loro regina reggente, Agnese d'Aquitania, si opponesse al nuovo papa a nome del giovane re Enrico IV. Agnese non era mai stata preparata per le battaglie spietate e i maneggi richiesti dalla politica papale e non sapeva come affrontare i compiti che si trovava davanti. Poiché rimase in silenzio, senza reagire in alcun modo, il vescovo di Colonia, un uomo ambizioso di nome Anno, fomentò un diabolico complotto, fece rapire il suo sovrano, facendo del giovane Enrico un prigioniero irraggiungibile nella sua barca. Il vescovo Anno pretese poi che Agnese rinunciasse alla reggenza e ritornasse in Francia, lasciando il ragazzo nelle mani dei vescovi che lo avrebbero cresciuto come un vero re per il popolo tedesco. A 11 anni Enrico IV era diventato ancora più arrogante, prepotente e petulante. Rimproverava quelli che lo avevano catturato di averlo strappato dalla sicurezza di sua madre e di avergli provocato un trauma indicibile. Dal canto loro, i rapitori, che erano i funzionari ecclesiastici di più alto rango della Germania, lo assecondavano eccessivamente. Lo viziarono più della sua ottusa madre, trasformandolo in una creatura corrotta e lasciva. Generarono un mostro. Quando raggiunse i 15 anni, l'età legale per governare, Enrico IV aveva una propensione per la stravaganza e per gli eccessi sessuali, che comprendeva prostitute, orge e quelle che sarebbero diventate leggendarie perversioni. E secondo alcuni pettegolezzi, gli ecclesiastici che procuravano a Enrico i mezzi per indulgere ai suoi peccati spesso vi partecipavano essi stessi. La madre di Enrico, tornata in Aquitania, ormai era diventata una sua acerrima nemica. Sentendo della depravazione del figlio, la pia nobildonna lo aveva ripudiato e si era schierata contro la corona tedesca. L'abbandono decisivo da parte della madre era stato il colpo di grazia per la mente disturbata di Enrico. La totale assenza di un'influenza femminile, dopo gli 11 anni, aveva traviato ulteriormente la sua psiche. E il giovane re si era trasformato in un furioso e sadico misogino. Se non fosse stato un sovrano, ben presto si sarebbe scoperto che era un pericoloso psicopatico. Correvano voci terrificanti sui corpi di giovani donne che dovevano essere fatti sparire di nascosto dopo che Enrico aveva attraversato uno dei suoi periodici attacchi di lussuria violenta. Senza dubbio, gli ecclesiastici corrotti che lo circondavano alimentavano la sua opinione che le donne esistessero solo per la più vile soddisfazione del suo piacere. Di certo il tradimento e la debolezza di sua madre avevano dimostrato che le donne erano inutili dal punto di vista politico e non si poteva affidare loro alcun potere. In realtà, alle donne non si poteva affidare un bel niente e meritavano il destino che lui decideva di riservare loro. Gli stessi vescovi del nord che controllavano il potere e le sorti di Enrico presero la decisione di inviare una banda di mercenari armati a Roma per piazzare con la forza il loro uomo sul trono pontificio. Quando venne stabilito che una truppa toscana si sarebbe recata a Roma per difendere la posizione di Papa Alessandro, Matilde, ormai diciottenne, insistette per unirsi al drappello. Per lei quella era una causa importantissima. Alessandro era il suo papa, un orgoglioso e forte cittadino di Lucca e un segreto difensore dell'ordine. Avrebbe combattuto per lui fino alla morte se fosse stato necessario. Matilde entrò a Roma al fianco di Con, guidando un'impressionante schiera di guerrieri toscani, indossando la sua armatura lucente. La gente di Roma era tanto scandalizzata quanto entusiasmata da quella scintillante giovane guerriera che correva al galoppo per difendere il suo pontefice. Con fu attento a tenere Matilde lontana dalla mischia, ma alla fine dovette ammettere che aveva combattuto con valore e buon senso. Lo sfortunato risultato per le forze toscane, tuttavia, fu una battaglia sanguinosa con gravi perdite da entrambe le parti e nessuno in grado di rivendicare la vittoria. Il Debrando di Soana scortò il nuovo papa, Alessandro II, a Lucca, dove sarebbe stato al sicuro sotto la protezione della Guardia Toscana. Matilde ripartì con Con per portare notizie a Firenze, ma non prima che Brando intravedesse quella straordinaria giovane che stava già diventando oggetto di leggenda. La sua ultima visione fu lei di spalle avvolta da una luce ramata che il bagliore del sole rifletteva specchiandosi nel Tevere. Poi, a un tratto, un raggio di sole colpì il fiume abbagliandolo e interrompendo la visione. E in un istante di preveggenza Brando seppe che le loro strade si sarebbero incrociate di nuovo.